C'è puzza che svengo, mangio pappa e lamento la mancanza di sale, 2 mesi di isolamento e ripenso lo stesso. Com'è bello il mio sabato sera, senza coca né pera, unica amica alla tastiera, mio telefono fisso, sento il rap, rividisco, a pensare che forse un giorno mi mancano tanto e non cura il pianto, anzi soltanto una lacrima canto, per capire che cosa sogno una morte rosa, sposa mia non esisti, ma sul giornale ci han visti, ora sono contento e ripenso. Sabato sera senza coca né pera, forse qualche cannetta e canto per me, questa mia favoletta, la morale è questa, nella vita puoi fare tutto quello che vuoi, ma ricordati sempre di non esagerare, perché solo chi esagera sa sbagliare, perché solo chi esagera sa sbagliare.